Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. La terza parte di Eclettica, in questa settimana in cui abbiamo un solo film a tenerci compagnia fra un brano e l'altro, ovvero sia Fantozzi, il primo in assoluto nella storia dei film di Paolo Villaggio, e invece tanti autori diversi per quanto riguarda gli incipit. A differenza di altre settimane non c'è un solo autore a tenerci compagnia, ma questa settimana va in questo modo. Infatti state per sentire le parole di un autore diverso rispetto a quello della prima e rispetto a quella della seconda parte di Eclettica. Giulio@radiorockfm.com è l'indirizzo di mail per iscrivervi alla lista nera o per andare a vedere gratuitamente. Questa settimana c'è questo biglietto in palio: Cesare Basile assieme ai Wheeler Grand Conspiracy il 27 di questo mese allo Zero Music Club di Azzano San Paolo, e poi myspace.com/eclettica è l'altro spazio su cui potrebbe valer la pena magari andarsi a fare un giro per farsi un po' un'idea su che cosa ci si trova da quelle parti, qual è il contributo che potete lasciare. La parte dei commenti è quella che si sta sviluppando meglio, secondo me, con rimandi rispetto alle playlist che vengono pubblicate di settimana in settimana. L'ultima volta che lei vide Parigi, quando per l'ultima volta cantarono gli uccellini, fu da un treno che velocemente si dirigeva verso sud, nel 1968, al tempo della rivoluzione studentesca. E quello fu quasi l'ultimo treno che riuscì a partire. Ma tutto ciò va oltre la storia, che iniziò una tarda sera alla Coupole a Montparnasse, quando qualcuno la presentò a Julian Mendes. E così nacque una storia d'amore in quei giorni della rabbia. Passò un po' di tempo prima che lo rivedesse, mentre cenava tardi da solo in fondo alla Coupole. Dapprima lo prese per uno spagnolo o un basco, benché non potesse spiegare il perché. Questo era l'incipit di L'amore nei giorni della rabbia di Lawrence Ferlinghetti. Sleep all day in my van in the pecan grove, until I woke up all alone today by the side of the road. Now I'm climbing Faith Mountain with a broken back. I got my job at the fireworks factory. Found the letter in the mud that she said would half explain, but the words got washed away in the pouring rain. Now I'm climbing Faith Mountain with a broken back. Walk 5 miles down the road to the filling station. Got a cloud hanging over my head like a shroud of desolation. Feel them hexes and sexual psycho complexes from my past. Coming back with the terrible vineyards in search of my sorry ass. With a broken back, I got my job at the fireworks factory. I see the grade in the hill of a head, man, it sure looks steep. I can't kill with the wolves, but I sure as hell ain't gonna die with no sheep. We'll be right back. factory so early, when you got a mind as big as it is uncertain. You should never ought to sneak behind the magic curtain, where the love and the hope and the rage and the pain tap dance with my memory in the midnight rain. Ain't no kind of soap gonna wash away this kind of stain. Lord, I'm sick to the bone of this whole back-breaking game, 'cause I'm climbing a big mountain with a broken back. I got my job at the fireworks factory. I hear the boss man barking at me, say, pick up the swag, kid. Said for him, ain't there a soul here talking to me, talking to me. Migliore, e questo è il titolo del nuovo di Molteni all'interno di Eclettica sulle frequenze di Rock FM, ovviamente in compagnia di Giulio Caperdoni. Vediamo di proseguire rimanendo in Italia con un disco che non è al suo primo passaggio nelle playlist di Eclettica come quello di Molteni appena ascoltato, ma già ci si è ritrovato sia come pillola che anche come scelta serale. Sto parlando di Nuccini, Corrado Nuccini, Giardini di Mirò, che si è dotato di punto esclamativo, si è privato del nome di battesimo e ha creato

White Light erano questi Super System dal loro nuovo disco per Touch and Go, ed ora una delle scoperte di Eclettica, non possiamo non definirle altrimenti, di questo inizio di stagione, gli Eagle Seagull. Worship and greed, I'm torn between, and I feel so. came jumping down the stairs, screaming bloody awful. You woke up God and everyone, screaming bloody awful. So I took you to the doctor. He said, yeah, it's a bad one, and there's such a shame about it, 'cause she's so pretty. And then the earth started shaking, and yeah, it was crazy. Heaven and hell came crashing down. And then the earth started shaking, yeah, it was crazy. Heaven and hell came crashing, it came crashing. Lei si chiama Shara Warden, però si fa conoscere con lo pseudonimo My Brightest Diamond, incide per Asthmatic Kitty, ed è uscito un album dal titolo Bring Me the Workhorse, dal quale già ci eravamo ascoltati Dragonfly. Oggi invece una diversa traccia, Something of an End, quasi in chiusura di Eclettica. Chiudo con un progetto tutto italiano, due film di culto che si incontrano nell'immaginario musicale, due vecchi amici, ovvero sia Vince Merlino, voce e basso degli Anonimo FTP, e Paul Rondena, ex chitarra degli Anonimo FTP, che si incontrano fra le colline marchigiane. A loro volta incontrano un Elephant Man, se ne innamorano e decidono di organizzare un picnic e musicare le varie portate. Quindi noi ci ascoltiamo proprio l'ultima di queste portate, di questo disco sporco e provocante, con errori e orrori, bucolico e alcolico, un po' come la storia di John Merrick. E quando si mangia si fanno le briciole. Queste sono le briciole del dessert. Eclettica, fine della terza parte.